La peste motoria. Racconto di Dino Buzzati. Lettura di Stefano Aldovisi. Un mattino di settembre, nel garage iride di via Mendoza, per caso ero presente, entrò un'auto grigia di marca esotica e di forma inusitata, con una targa straniera che non si era vista mai. Il padrone, io, il vecchio capo meccanico Celada, mio ottimo amico, e gli altri operai, eravamo tutti di là nell'officina. Ma attraverso una vetrata il grande salone dei posteggi era visibile. Dall'auto scese un signore sui 40, alto, biondo, elegantissimo, un po' curvo, che si guardò intorno preoccupato. Il motore non era stato spento e andava al minimo. Ciò nonostante ne veniva un rumore strano, mai udito, un arido stridio, quasi i cilindri macinassero dei sassi. Subito vidi come Celada si sbiancasse in volto. «Madonna santa!» mormorò. «Questa è la peste, come nel Messico, me la ricordo bene!» Poi corse incontro allo sconosciuto, che era straniero e non capiva una parola d'italiano. Ma al meccanico bastarono le gesticolazioni per spiegarsi, tanto era ansioso che quello se ne andasse. Il forestiero se ne andò, sempre con quel rumore orrendo. «Hai delle gran balle, tu!» disse il padrone del garage al capo meccanico, come fu rientrato in officina. Li conoscevamo fin troppo bene per averli uditi 100 volte, gli inverosimili racconti di Celada, che da giovane era stato nelle Americhe. L'altro non se la prese. «Vedrete, vedrete!» disse. «Per noi tutti sarà un affare serio!» Questa, che io sappia, fu la prima avvisaglia del flagello, il timido rintocco che prelude il dispiegato scampanio di morte. Passarono però 3 settimane prima che un altro sintomo affiorasse. Era un ambiguo comunicato del comune. Evitare abusi e irregolarità, speciali squadre erano state istituite a cura della polizia stradale e della vigilanza urbana, era scritto, per controllare anche a domicilio, nelle rimesse, l'efficienza degli automezzi pubblici e privati e, nel caso, ordinare il ricovero conservativo, anche immediato. Era impossibile indovinare, sotto così vaghi termini, il vero scopo, e la gente non ci fece caso. Chi sospettò che quei controllori non fossero altro che monatti? Ci vollero altri 2 giorni prima che l'allarme si spargesse. Poi, con rapidità fulminea, la voce, per quanto inverosimile, si diffuse da un capo all'altro della città. Era arrivata la peste delle macchine. Sui prodromi e manifestazioni del misterioso male se ne sentì di ogni colore. Dicevano che l'infezione si rivelasse con una cavernosa risonanza del motore, come per un intoppo di catarro. Poi i giunti si gonfiavano in gibbosità mostruose, le superfici si ricoprivano di incrostazioni gialle e fetide, e infine il blocco motore si disfaceva in un intrico sconvolto di assi, bielle ed ingranaggi infranti. In quanto al contagio, si pretendeva che avvenisse attraverso i gas di scarico, perciò gli automobilisti evitavano le strade frequentate. Il centro divenne pressoché deserto e il silenzio, già tanto invocato, gli si stabilì sovrano come un incubo. Anche i garage, per la promiscuità che implicavano, furono nella maggioranza abbandonati. Chi non disponeva di un ricovero privato preferiva lasciare l'auto nelle località meno battute, come i prati della periferia. E il cielo rosseggiò dei roghi delle macchine uccise dalla peste e ammucchiate a bruciare in un vasto recinto che il popolo chiamava Lazzaretto. Com'era fatale, si scatenarono i peggiori eccessi. Furti e saccheggi di vetture incustodite, denunce anonime di auto che in realtà erano sane, ma ad ogni buon conto, nel dubbio, venivano prelevate e date a fuoco. Abusi dei monatti incaricati del controllo e dei sequestri. Incoscienza delittuosa di chi, pur sapendo la propria macchina impestata, circolava tuttavia seminando il contagio. Auto sospette bruciate ancora vive. Se ne udivano a distanza le urle atroci. Da principio, per la verità, il panico fu maggiore del danno. Si calcola che nel primo mese non più di 5.000 automobili sulle 200.000 della nostra provincia soccombessero alla peste. Parve quindi subentrare una tregua. Il che fu male, perché, con l'illusione che il flagello fosse praticamente terminato, una quantità di macchine tornò in circolazione, moltiplicando così le occasioni di contagio. Ed ecco il morbo ridestarsi con esacerbata furia. Lo spettacolo di vetture fulminate dalla peste per la via divenne la cosa più normale. Il soffice rombo del motore all'improvviso si increspava e screpolava, frantumandosi in un rovinio frenetico di ferro. Qualche sussulto ancora, e poi il mezzo si fermava, maceria fumigante e maledetta. Ma più orribile ancora era l'agonia dei camion, le cui possenti viscere impegnavano una disperata resistenza. Lugubri tonfi e scrosci uscivano allora da quei mostri, finché una sorta di ululato sibilante annunciava l'obbrobriosa fine. Ero in quel tempo autista di una ricca vedova, la marchesa Rosanna Finamore, che viveva in compagnia di una nipote nell'antico palazzo di famiglia. Io mi ci trovavo molto bene. La paga non si poteva dire principesca, ma in compenso il servizio era pressoché una sinecura. Poche uscite di giorno, rarissime alla sera, e la manutenzione della macchina. Si trattava di una grossa Rolls Royce nera, già veterana, ma di aspetto superlativamente aristocratico. Nero orgoglioso. Per la via, anche le più potenti super sport smarrivano l'abituale tracotanza alla comparsa di quel superatissimo sarcofago trasudante sangue blu. Il motore, poi, nonostante l'età, era un miracolo. Insomma, io le volevo bene, più che se fosse mia. L'epidemia quindi tolse anche a me la pace. Si diceva, è vero, che le maggiori cilindrate fossero praticamente immuni. Ma come esserne sicuri? Anche per mio consiglio, la marchesa rinunciò a uscire di giorno, quando era più facile il contagio, e limitò l'uso della macchina a rare sortite. Dopo cena, in occasione di concerti, conferenze o visite. Verso la fine d'ottobre, proprio nel colmo della peste, tornavamo a casa con la solita Rolls Royce. Tornavamo da un ridotto di dame solite scambiare quattro chiacchiere per passare la malinconia di quel tempo. Quando ecco, proprio mentre si imboccava piazza Bismarck, percepì nell'armonioso fruscio del motore una breve incrinatura. Un aspro grattamento che durò una frazione di secondo. Ne chiese alla marchesa. «Non ho sentito niente io», mi disse. «Sta su di giri, Giovanni, non pensarci. Questo vecchio catenaccio non ha paura di nessuno. Tuttavia, prima di arrivare a casa, altre due volte quel sinistro cigolio, ingorgo o sfregamento, non saprei proprio come dire, si ripeté, riempendomi l'animo di orgasmo. Rientrato, A lungo rimasi nel piccolo garage a contemplare la nobile macchina, apparentemente addormentata, finché per certi indicibili gemiti provenienti dal cofano, benché il motore fosse spento, fui certo del peggio. Che fare? Per avere un consiglio, pensai di rivolgermi al vecchio meccanico Celada che, oltre all'esperienza messicana, pretendeva di conoscere una speciale mistura d'oli minerali capace di prodigiose guarigioni. Benché fosse passata mezzanotte, telefonai al caffè dove egli usava fare quasi ogni sera la partita. C'era. Celada, gli dissi, tu sei sempre stato mio amico. Spero bene. Siamo sempre andati d'accordo. Per grazia di Dio. Di te mi posso fidare? Oh, diavolo! Vieni allora. Vorrei che tu vedessi la Rolls Royce. Vengo subito. E mi parve, prima che quello mettesse giù la cornetta, di udire un lieve risolino. Restai seduto su una panca ad aspettare, mentre dalle profondità del motore uscivano sempre più frequenti rantoli. Con l'immaginazione contavo i passi del Celada, calcolavo il tempo. Fra poco sarebbe stato lì. E standomene in orecchi per sentire se il meccanico arrivava, tutto un tratto udì nel cortile uno stropiccio di piedi, ma non di un uomo solo. Un orrendo sospetto mi passò per la mente. Ed ecco, aprirsi l'uscio del garage, presentarsi a venire avanti due sudice tute marrone, due facce scomunicate, due monatti in una parola. Vidi mezza la faccia del Celada che, nascosto dietro un battente, rimaneva lì a spiare. Allurida carogna, via, maledetti! E cercavo affannosamente un'arma, una chiave inglese, una barra metallica, un bastone, ma quelli mi erano già addosso. Fra quelle braccia forzute fui ben presto prigioniero. «Su, mascalzone!» gridavano con versacci di rabbia insieme e di scherno. «Rivoltarsi contro i controllori del comune, contro i pubblici funzionari, contro quelli che lavorano per il bene della città!» E mi legarono alla panca, dopo avermi infilato in tasca, suprema irrisione, il modulo regolamentare per il ricovero conservativo. E infine misero in moto la Rolls Royce, che si allontanò con un mugolio doloroso, ma pieno di sovrana dignità. Sembrava volesse dirmi addio. Allorché dopo mezz'ora di tremendi sforzi fu riuscito a liberarmi, senza neppure avvertire dell'accaduto la padrona, mi lanciai nella notte, correndo come un pazzo al lazzaretto, sperando di giungere in tempo. Ma proprio mentre io arrivavo, il Celada, con due monatti, stava uscendo dal recinto e filò via come se non mi avesse visto mai, dileguando nel buio. Non riuscii a raggiungerlo, non riuscii a entrare nel campo, non riuscii a ottenere che sospendessero la distruzione della Rolls Royce. A lungo restai con un occhio incollato a una fessura della palizzata. Vedevo il rogo delle sventurate macchine, Sagome scure si contorcevano spasimando fra le vampe. Dov'era la mia? In quell'inferno era impossibile distinguere. Solo per un istante, sopra il muggito selvaggio delle fiamme, credetti di riconoscere la sua cara voce. Un urlo altissimo, straziante, che svanì presto nel nulla.